Cosa pensi di te sulla terra? Cosa ti passa? Ti passa? Quali sono i tuoi sentimenti? Here we are making pennies when we should be making dollars. Here we are making pennies when we should be making dollars. Here we are making pennies when we should be making dollars. Here we are making pennies when we should be making dollars. A cosa pensi mentre suoni? Vuol dire, cosa ti passa per la testa? Quali sono i tuoi veri sentimenti? Non lo so. Sì, sono sottopagato.